cos'è questo? Come cos'è? Dai! Il lunedì... I nostri ascoltatori hanno già indovinato. Lo spirito guida totem del lunedì è... il serpente del lunedì. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Che cos'è questo? Il serpente del lunedì. Non capisco io però le corrispondenze tra i giorni. Poi le capirai. No, ma però se non c'è la corrispondenza. Non chiara, abbiamo ancora riempito tutte le caselle della settimana. L'arcano deve essere svelato. Faremo un riassunto alla fine della puntata per ricordare gli animali fin qui elencati. Non me li ricordo a memoria. Neanche io. Vigilia del primo maggio, giusto? E il ponte? Per noi il ponte è come il ponte sullo stretto, non si fa mai. Io sono tornato ieri dalla Sicilia, basterebbe pensare al ponte che viene sventolato da parecchi anni e poi sono andato in Sicilia e il ponte non solo non è costruito, ma non sarà mai costruito probabilmente. Ma senti la Vox Populi, il ponte non si farà mai, quindi è giusto che non facciamo il ponte. È un po', Vox Populi. Sì, un po' vecchia per essere la Vox Populi. Vabbè, ma l'Italia è un paese di vecchi, non un paese vecchio. Sì, ma non è così vecchio. Vabbè, ma questo guarda che è il grandissimo intellettuale Gillo Dorfles, ultracentenario, pittore, critico, scrittore, eccetera. Ma Gillo, più che Gillo sembrava il Grillo. Sai il Grillo Dorfles. Comunque, si occupa di noi che non facciamo il ponte? È un vero intellettuale, si occupa di tutto. Anche di inventare nuove parole, tutto fa. Vero Gillo Dorfles? Voglio creare dei nuovi termini come democrazoide. Infatti certe parole forse è meglio lasciarle perdere, democrazoide. Ma no, democrazoide, Dago, ma sei sordo? Allora, siamo pronti? Certo, siamo pronti, siamo qua. Shhh, Alberto, fai silenzio che poi scappano. C'è pericolo, chi? E gli uccelli, e non hai letto il Deplian? Ah già, il Deplian, oggi è il birdwatching. Bravo. È giornata birdwatching, qui siamo di notte comunque. Shhh. Cosa? Chi? L'hai sentito questo? Chi è? Questo è il cagù. Che è il cagù? Il cagù è un uccello particolarissimo che ci sia solo in questa stagione, eh? Si è stati fortunatissimi, la prima l'abbiamo beccato. Una botta veramente, una botta di vita, cioè, ma se non l'hai anche visto. Alberto! Chi è questo? Si è stati fortunati due volte perché adesso abbiamo beccato il codibugnolo! E questo, oggi è una giornata veramente, c'è da giocare alla lotteria qui. Il codibugnolo è, però, una piccola descrizione, cioè, non so. No! Cosa? Ma questa non è una descrizione, ho detto. Come hai fatto? Le piume, le zampe? Questo è la filippitta. Quella filippitta, ma senta un po', lei si sta, mi sembra che stia un po' inventando, cioè, magari non è specialista, perché qua sul Depre ci vuole lo specialista, birdwatching, quindi uno che sa tutto, no? Lei magari l'ha messo qua a sua insaputa. Alberto, ma guarda, non hai capito che te qui sei, pensi che sei un po' irriverente, però se tu ascoltassi con attenzione scopriresti che abbiamo già trovato quattro specie di uccelli che sono, questa è la sposina, si sente dal lamentio che c'ha sul fondo. Ma chi, ma è sempre la stessa roba qui, allora facciamo così, facciamo un gioco, facciamo la prova del 9, facciamo il verso di un uccello e lei mi dice che uccello è, che specie è. Va bene? Va bene, Alberto, bella idea, guarda, allora, ti mostro la mia professionalità. Non aspetto altro, perché abbiamo pagato, quindi... capito? Bello, bravo, ma Alberto, ma c'è una vocazione per queste cose. Questo qui l'ho indovinato subito, è il piripiri col bianco. Già, è il piripiri col bianco questo qua. Questo qui è il cinghiale! Come questo cinghiale? Questo è il cinghiale quando i giorni maroni! Prima di partire all'attacco, faccio solo qua. Allora, qui, questa è la prova del 9. Il col bianco, poi allora, qui facciamo... Shhh, ma la senti questa? Ma la senti questa qua in lontananza? Questa qua è il classico verso della cannaiola. Ma che cannaiola? Lei, ma questo qui è un tifoso di una macchina. Una macchina? Che macchine ci sono qua? Ma com'è che macchine ci sono? Questo qui è la Vectra, no? Questo qui è il suono di una Vectra. Oh, cabò, sarà mica la mia di Vectra, ma lo stesso Vegan, secondo te? E la riconosci? Beh, quella lì adesso si sta allontanando. Oh, cabò! E mi è lanciolata, vero? Fa niente, pazienza. Senti qua, senti. Chi? È il piccione viaggiatore, allora, che sta arrivando a prenderci. Uè, la smettiamo o no? Che bene, stai certo, a parte tutti i nomi inventati. E poi devi parlare degli uccelli che... Io sono un bambino della città, no? E quindi cioè, io vedo piccioni, piccioni quelli per terra, no? I semi morti. E poi gli uccellini quelli che lì cerchi di beccarli, no? Con le castagne, con le matte. E se non li becchi mai, questi vanno su, e vanno su con le zampette sui fili dell'elettricità, eh? E lì mi viene una rabbia perché da lì non riesco più a prenderli. E questi non si fulminano. Ma perché non si fulminano? Cioè, adesso è una roba che sto stato lì l'altro giorno, due ore, guarda su, dicevo, e qui prima o poi si fulminano, magari sono questo lì in tempo. Capite? Il veleno, prendi il veleno oggi e domani te ne vai. E invece no, sto lì due ore, dopo che ero ormai infreddolito, dico, questi non muoiono. Ma perché non muoiono? Alberto, stai calmo, adesso te lo spiego perché non muoiono, e basta che ti tranquillizzi un secondo. Che mi tranquillizza, che... mi dia bene una nozione, per questi, perché non si fulminano? Tranquillo, allora, adesso te lo spiego. Perché praticamente l'uccello, si chiama così, uccello dell'elettricità, perché, insomma, un particolare, l'uccello dell'elettricità perché che c'ha una membrana spessissima tra la zampina, no? Con la zampina e il cavo dell'elettricità. A cui si attacca e praticamente ma lui con questa zampina riesce a mantenere uno strato di isolamento. Quale isolamento? È uno scienziato questo qui, è un uccellino? Allora, eh beh, ma ce l'ha, l'evoluzione. Il bonifico è già stato effettuato, no? A lei che le interessa? A questo punto io risparmiavo, saperlo prima, mi compravo un videogioco e mi stavo a casa a guardarmi un documentario in TV degli uccelli, che poi a ben vedere non è che me ne freghi poi così tanto, quindi poi cambio canale, vedo un cartone, no? La locustella lanceolata è un uccello piuttosto pigro e ama passare il tempo posata su pericolosi cavi elettrici ad alta tensione. Ma perché non resta folgorata? La caduta di tensione che si ha passando da una zampa all'altra della locustella è molto piccola. Se poi si considera il fatto che la resistenza elettrica del suo corpo è alta, si può tranquillamente affermare che attraverso il corpo della locustella non fluisce nessuna corrente. Tuttavia, se alla locustella capitasse di toccare il traliccio mentre è appollaiata sulla linea ad alta tensione, si creerebbe un cortocircuito fra il cavo e la terra che permetterebbe a una enorme corrente di fluire attraverso il corpo della locustella, disintegrandola. Questo però accade molto raramente e quindi è molto meglio continuare con le classiche fucilate. Eravamo in tangenziale, questo è un po' paradossale, a cercare degli uccelli, ma noi siamo degli scout. Cip cip! Di colpo lui, cip cip! Lui si voltò, cip cip! Lui ci guardò, bang bang! E Alberto gli sparò, lai la la la, lai la la la, lai la la la la la. Pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. È un predellino digitale, la più grossa novità della politica italiana annunciata la scorsa settimana da Angelino Alfano. Cos'è predellino digitale? Cioè, nel senso che è un predellino, ma non c'è. Se è digitale, cos'è? Virtuale, non ci puoi appoggiare i piedi. Scendi dalla macchina e caschi. Soprattutto mi chiedo come un predellino digitale possa rappresentare la più grossa novità della politica italiana. Al massimo è la più grossa novità della tecnologia automobilistica italiana. Capirai che importanza. Il predellino, Drago, è l'unica cosa che nessuno mai guarda in una macchina. Tu non hai mai guardato prima di comprare una macchina come il predellino? Ma com'è che adesso li fanno digitale? Ma cosa scrivono loro su sti giornali? Ma che ne so. Tanana Faranda. Sì, torniamo domani, sempre la solita Rossana ora. Faranda. Ma com'è? Rossana Rossanda. 16:45, chiedo asilo. Capo Drago, titolo. Cosa? Basta. Basta, no? Ok.